tabacco, anche stanotte mi rispacco di seghe mentali. Ho suonato in due centri sociali e ho lo stomaco girato, colpa del gelato del terzo Campari, del quarto Campari. Astronavi, guerre nucleari, piogge chimiche, piogge solari, non mi fanno niente, giuro non mi fanno niente. Ma se passa una malattia, ipocondria, portami via, portami via. E ti saluto a tutti, mi sento piena d'aria, non li so fare i rutti, quindi morirò così. Ti saluto a tutti, la testa che mi scoppia, mamma ti vedo doppia, io morirò così. Maniaca, ipocondriaca, maniaca, ipocondriaca. Ma che ne sai il dottore? Datemi il cortisone. Io non respiro bene, ho le caviglie piene, mi metto a testa in giù, ma non ci vedo più. Ho paura che se mangio soffoco, m'hanno detto corre flusso gastrico, ma se bevo vino rosso mi rilasso e sembra quasi quasi che guarisco, fino a che non ci ripenso e poi collasso e ricomincio. Oddio che strazio, che strazio. E vi saluto a tutti, mi sento piena d'aria, non li so fare tutti, quindi morirò così.